Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti i Saint Lips da Roma. Con voi, con loro, ascolteremo sei brani del CD Charm, come il primo che è andato in onda. Titolo? Savior. Tra l'altro voglio ricordare che potete trovare il nostro videoclip di Savior su YouTube, che è stato girato da Simone Pellegrini. Premio e tra May, l'altro anche... Come? È stato già premio May come miglior regia qualche anno fa. È stato girato poi tra l'altro anche a Londra. Tra Londra e Roma. Sì, alla McKnight. La vostra esperienza durante la registrazione e quali idee musicali che hanno dato vita a questo CD? So che avete lavorato con un produttore americano. Antonio racconta tutto. Vai tu, Marco. Ci rimpagliamo. No, abbiamo lavorato con Bobby McIntyre, batterista e produttore di Greg Dulli e Mark Lanagan in Twilight Singers, e abbiamo avuto questa esperienza di pre-produzione a Roma di 5 giorni. Poi abbiamo registrato in 2 settimane in presa diretta su un nastro alle officine meccaniche di Mauro Pagani, e sempre con la produzione artistica di Bobby, e il mixaggio è stato realizzato presso lo studio 71 di Miami. E alla fine il mastering invece è stato presso i Capitol Studios in California. Insomma, ha fatto il giro del mondo. Comunque l'analogico è tutta un'altra storia. Sono molto più caldo. Sì, sì. Quindi bisogna anche essere un po' più professionali, perché se si sbaglia bisogna tornare indietro. Bisogna essere precisi, sì, molto sì. Precisi. Quindi anche ti dà una formazione, ecco. Perché poi magari tanti dicono: ma sì, tanto con il digitale si risistema, è morta lì. Invece con l'analogico devi proprio ripartire a rifare. Esatto, tutto. I pezzi li devi macinare, non c'è niente da fare. E non puoi neanche perdere tempo, perché poi il nastro, essendo anche abbastanza raro e costoso, bisogna essere appunto precisi. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: Little Sister. When you In studio ancora con i Saint Lips, capitolo recensioni musicali, quali le più lusinghiere e che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato puntualizzato? Per quanto mi riguarda, il complimento più bello è stato da Pippi Fallon, però in radio, non nelle web, nelle recensioni, insomma, ecco. Vabbè, sempre una recensione. Sì, sì, ha detto quando Blondie non è né Blondie né Saint Lips, mica male. Per Little Sister, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sì. Per il resto? Per il resto, Rumore ha fatto un'ottima recensione. Barbara Tomassino, lo stesso Gianni Della Cioppa per Fuori dal Mucchio. Ed anche le webzine ci stanno trattando con molta considerazione e rispetto. Sì. Prossima canzone. Prossima canzone, A Hope. Se non sbaglio. Non sbaglio. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con i Saint Lips, rimanete ancora su Radio RCS. Grace won't wait.